Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Quello del velo è un vecchio cavallo di battaglia. Cancellare il divieto di indossarlo nei luoghi pubblici, uno dei mattoni dello Stato laico in Turchia, il suo più ostinato obiettivo. Lo aveva già fatto nel 2008 da premier, aprendo la porta alle ragazze velate nelle università. Insiste oggi da presidente. D'ora in poi le studentesse potranno entrare in classe con il turban fin dalle scuole medie. Dai 10 anni in su, sì al velo islamico. No però al trucco per le femmine. Niente barba, baffi, berretti per i ragazzi. Niente tatuaggi, piercing e capelli colorati. Gli oppositori dell'uomo forte della Turchia lo giudicano un altro passo verso l'islamizzazione di un paese orgoglioso delle sue radici laiche. Una guerra contro la modernità fatta di molte battaglie. Le chiusure temporanee dei social network, Twitter e YouTube accusati di alimentare il dissenso. Il divieto Lo so, subito direte, Mustafa Kemal Pasha si rivolterà nella tomba. Dov'è la rivoluzione dei giovani turchi? Stiamo arrivando anche in Turchia a una profonda, radicale, irreversibile islamizzazione. E dove andranno i coatti romani in fine settimana di Pasqua se non a Istanbul a girare per moschee azzurre, a vedere i bagni turchi, a immaginare lussurie orientali? Dove andranno se diventerà un paese a forte radice integralista? Beh, vi ripeto quella che è la notizia, perché è giusto che voi sappiate, è giusto che vi facciate un parere. Allora, secondo questa notizia data da un giornale turco online, però risponderebbe alla Gazzetta Ufficiale Turca del 27 settembre, tutti gli studenti nelle scuole turche, sia maschi che femmine, non possono tingersi i capelli, non possono truccarsi, non possono avere tatuaggi o piercing. Gli uomini non possono portare nemmeno la barba e i baffi. Questo non me lo spiego, devo capire con un profondo conoscitore delle diverse declinazioni della regola musulmana. Io i turchi me li sono sempre immaginati con dei baffoni da turco, perché non posso mettere baffi e barba. Comunque sia, sono vietati, oltre ai cosmetici, anche tatuaggi, piercing, e soprattutto non si possono mettere sciarpe, berretti, cappelli, borso, materiale con simbolo politico, foto o scritte. Non so per simbolo politico se valgono anche le sciarpe delle squadre di calcio, forse sì, forse no. Alcune squadre di calcio, almeno in Italia, sono fortemente legate a chi le possiede, che naturalmente molte volte, spesso, è legato alla scena politica. Una sciarpa del Milan, una sciarpa della Fiorentina danno un segnale, come una sciarpa probabilmente la Juventus o altre squadre. Dal dibattimento non è emerso che non è partita una cosa impropriamente. Detto questo, come la pensate? Voi dite, è un segno di profonda, radicale inciviltà dare questi divieti? Siete d'accordo? Cosa vietereste voi? Siete d'accordo con l'elenco dei divieti nelle scuole? Sareste anche voi pronti a fare il grande passo di mettere un cartello davanti alla scuola in cui è vietato piercing, è vietato tatuaggio, è vietata l'acconciarsi in una certa maniera i capelli? Ecco, 800240024, questa è la domanda che vi faccio, e questa però è la risposta che vi pongo, tratta da uno dei più nazionalpopolari programmi della televisione italiana, che è Forum, dove un giorno si presentò un ragazzo appunto con piercing, orecchini etnici, capelli a spazzolone, pulisci bagno, e la sua professoressa di scuola, che non voleva naturalmente che lui entrasse in classe così abbigliato, e il sommo equanime giudice di Forum così ha stabilito. Dal dibattimento è emerso che presso il liceo in questione vige un regolamento che disciplina anche il decoro personale degli studenti, i quali sono tenuti ad adottare un abbigliamento consono, e vieta tra l'altro l'esibizione di piercing e tatuaggi. Mattia invece insiste nel voler frequentare l'istituto ostentando i propri monili e i propri tatuaggi, dato che quotidianamente Marina, quando il ragazzo si presenta all'ingresso della scuola, lo respinge. Infatti Mattia è maggiorenne, quindi non vi è neanche l'obbligo di Marina di farlo comunque entrare nell'atrio dell'edificio. Questo stato di cose ovviamente rischia di percuotersi in maniera negativa sull'andamento scolastico. Questa è una preside di un istituto scolastico che dice di applicare il regolamento e non far entrare un ragazzo con piercing, capelli tagliati con taglio eccentrico, vestito in maniera non conforme a quello che giudica quella scuola, il regolamento della scuola, consono e conforme al regolamento scolastico, quindi al decoro. Ma come la pensate? È possibile questo? È da paese arretrato, da paese incivile? O è giusto che ci sia una regola anche nell'abbigliarsi, anche nel vestirsi? Sì, perché così la pensa il presidente turco Erdogan, ma alla stessa maniera la pensa anche l'insegnante che va da forum, vera, posticcia, figurante, comunque sia rappresentativa di una realtà nel nostro paese. Quindi anche noi, senza che si facciano proclami, senza che escano notizie allarmate sui giornali, senza che nessuno si stracci le vesti, abbiamo un regolamento molto simile, per cui nelle scuole non ci si può abbigliare, truccare, acconciare, se non secondo quello che la scuola decide. 800240024, voi come la pensate? Così ha dato il suo verdetto il giudice equanime del processo di Forum. Negli ultimi tempi l'elenco dei divieti nelle scuole si è via via adeguato ovviamente al mutato contesto sociale ed è stato in qualche modo determinato, questo spiace constatarlo, da una generale maleducazione e insofferenza verso le regole di civile convivenza che sempre più spesso si manifestano in molti adolescenti. In tale contesto ogni istituto gode di un certo grado di autonomia nello stabilire, se del caso, anche il modo di presentarsi dello studente, sia sotto il profilo dell'abbigliamento che degli accessori ed ornamenti vari. Molti istituti, pur senza richiedere l'uso della divisa, impongono comunque di presentarsi a scuola vestiti in modo ordinato e decoroso, proprio per evitare taluni eccessi che sinceramente nulla hanno a che fare con il mondo della scuola. 800240024, siete d'accordo, siete favorevoli al fatto che esistano dei regolamenti scolastici che stabiliscono anche la maniera di vestirsi, la maniera di abbigliarsi? Ricordo che al mio liceo c'era scritto nel regolamento che erano vietate le ostentazioni snobistiche. Mio fratello, che era mezzo matto, peggio di me, un giorno venne a scuola con un frac e fu naturalmente accompagnato fuori, ma lo fece apposta perché dice: questa è la mia ostentazione snobistica. Fu fermato sulla porta alle insegnanti, dice: ma lei cosa si crede, viene qui, è un buffone. E lui, per esagerare, disse: guardi, ho soltanto questo da mettersi, mio padre è morto e mia madre al mal sottile. Fu doppiamente cacciato da scuola. Questa è storia, naturalmente, c'è qualche compagno di classe può ricordarlo. 800240024. Giulio, buongiorno. Gianluca, buongiorno a voi. Inizio io? Certo, sto aspettando il suo contributo. Niente, allora ripeto, io sono una studente della facoltà di storia e mi sto, diciamo, specializzando sul diritto islamico. Ah, quindi lei risponde alla mia prima domanda, mi spiega perché no barba e baffi, forse? Ma allora, diciamo, il discorso della Turchia rimane, esula un attimo da quello che è il contesto classico musulmano, nel senso che lei sa che oltre ad essere la Turchia è uno stato laico. Non mi specifica in tonti barba e baffa ragazze, le ragazze possono farsela crescere, questo vuol dire? No. Gli adulti possono e non i ragazzi, ecco, adesso ho capito, scusate. Sì, prego, vada avanti. E no, quindi dicevo, il discorso turco è diverso, perché se si guarda quella che è l'applicazione di una norma comportamentale islamica o musulmana, non, in uno stato laico come la Turchia, non viene a essere determinata dallo Stato e quindi viene determinata da una consuetudine, la cosiddetta Sharia. Se in questo caso il Premier o un capo di Stato vuole imporre una regola, è lui che lo può fare, perché comunque riguarda da differenziare il diritto islamico dal diritto positivo. Il diritto islamico è quello legato alla religione, al Corano. Il diritto positivo è legge dello Stato. Quindi non è un rappresentante religioso che lo dice, ma il capo dello Stato. Esatto, perché ripeto, è proprio la differenza sostanziale. Però si profila l'idea di uno Stato, diciamo, teocratico alla fine. Se lui entra in merito a delle regole, sono delle regole religiose, sono regole semplicemente come la preside di Forum, che danno un assetto di omogeneità, di stile sociale alla propria scuola. Sì, è proprio una scelta personale che uno può decretare, perché ripeto, non essendoci un capo religioso come possiamo avere noi, in questo caso le regole del buon comportamento che derivano dall'altro grande pilastro della Sharia, quindi dalla Sunna, quindi dal comportamento di Mohammed e di Maometto. Maometto nei suoi tempi diceva che le donne dovevano essere velate, ma solo le sue donne per distinguere dagli altri, oppure l'uomo doveva depilarsi in certe zone piuttosto che in un altro. E dove si depilavano? No, non c'era un obbligo preciso. Ma qual era la regola? Allora, la regola era che Questa, ripeto, sono le... No, per capire, no, questa non l'ho mai saputa. Si devono depilare gli uomini? Gli uomini si devono depilare come si devono... Ma nelle parti intime? Nelle parti intime. Cioè, devo stare sempre lì col rasoio a tagliarsi i peli? Sì, ci sono delle... Però questo, ripeto, non è scritto nel Corano, è decretato dalla Sunna. La Sunna era il comportamento di Maometto, che sono due cose differenti. Cioè, la Sharia, che è la legge islamica, è composta da... il Corano, la Sunna erano gli atteggiamenti e la vita morigerata che teneva Maometto, più altre due o tre declinazioni. Quindi nella Sunna Maometto diceva... Ma qual è il motivo religioso della depilazione intima per il maschio? No, non è un motivo religioso, non è un motivo, è un motivo etico. Ah, estetico forse. No, è proprio un motivo etico, è un motivo comportamentale. No, perché c'è quella vecchia cosa, adesso non vorrei entrare in merito, ma... Diciamo, adesso lo dico anche perché molti uomini lo fanno, perché così guadagnano un centimetro in dimensione, perché non si vede, però questo non so se corrisponde a questa non è quello. E questo proprio... però lei però dice, questa regola imposta dal presidente della Turchia rientra comunque in questo disegno generale. Anche Franco dice qualcosa. Franco, buongiorno. Buongiorno, Franco. A voi. Sì. Un piccolo contributo, fu Kemal Atatürk che nel processo di laicizzazione della Turchia ai primi del Novecento decretò che i turchi non dovessero più avere né barba né baffi, le donne non dovevano più portare il velo e proibì anche l'uso dello zucchetto alla turca. Eh sì, ho capito, lo so, l'ho citata all'inizio, per questo ho detto si rivolterà nella tomba, però... Lo vietò perché voleva occidentalizzare la Turchia. Ma in questo caso mi sembra che questo è un misto di regole. Da una parte si ritorna a una tradizione, le donne possono mettere il velo, non si devono truccare, quindi devono mortificarsi nel loro aspetto esteriore. Ma quello che non capivo è perché i ragazzi non possono avere barba e baffi, ma probabilmente è un orgoglio, diciamo, del labbro che possono avere soltanto gli uomini adulti. Probabilmente è questa la risposta. Rimango con il dubbio, ma aspetto ancora. Ecco, aspetti, Roberto, buongiorno. Buongiorno. Chiuda la radio. Sì. Ecco. Sono un docente di storia e filosofia e quindi insegno anche nelle scuole. Io volevo intervenire sull'altra questione, se è giusto un decalogo, insomma, un regolamento dentro le scuole per quanto riguarda l'abbigliamento. La sua scuola ne è fornita? Si parla genericamente di decoro, però poi nei dettagli non si interviene, insomma. Ora, io ho letto anch'io, sentivo la notizia appunto di Erdogan e di quello che ha deciso. Beh, io ora non entrerei diciamo nel dettagliare tutte le cose sì e tutte le cose no, ecco, perché forse si entra un po' troppo nei particolari. Però quello che attiene al buon senso e quindi al regolare decoro mi sembra che non sia solo proprio di paesi come appunto la Turchia può essere, ma anche di paesi occidentali, tipo i completi che sono tenuti a indossare in alcune scuole. Sì, alcune scuole hanno la divisa, devo dire che è anche una buona regola, quindi si evita il confronto di classe fra ragazzi, tutti vestono uguale, non c'è la discriminazione, chi non può permettersi magari gli abiti firmati. Mi fa notare un ascoltatore che in Italia negli istituti privati può esserci un codice di comportamento estetico, nelle scuole pubbliche non c'è. 800 24 00 24, partiamo dalla Turchia, regole di abbigliamento, il look imposto nelle scuole. Mi scrive un ascoltatore: nel 61 istituto tecnico commerciale Federico Cesi vietati jeans alle ragazze, se troppo stretti anche ragazzi, perché si intravedeva ciò che doveva rimanere ben nascosto. Arianna, buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, volevo dire che secondo me le regole di abbigliamento dovrebbero seguire, cioè, non so se voglio spiegarmi. Lei quanti anni ha, Arianna? 16. 16 anni, è iperminorenne, sì. Sì, però ho un'idea anch'io, quindi la diciamo. Spero bene, si comincia a avere idee anche prima. Sì. Esatto. Lei a scuola le danno un regolamento per come vestirsi? In realtà no, cioè, dipende dai professori e anche quello non è giusto, perché dovrebbe esserci un regolamento unico per un omogeneo, per istituto, giusto. Perché non può essere che in una classe ci sono le ragazze in pantaloncino, in un'altra ti devi mettere la felpa perché i professori non accettano le canottiere, per esempio. Ecco, sono questi, diciamo, gli oggetti d'abbigliamento più demonizzati, pantaloncini e canottiere. Sì, diciamo di sì. È come in chiesa, bisogna coprirsi come in chiesa. Esatto. esattamente, fino a un certo punto è giusto, però presidi che non fanno entrare gli alunni perché hanno un taglio di capelli eccessivo non mi sembra giusto. E cosa viene considerato eccessivo nella sua scuola o in generale per quello che lei sa? Ah, non so, piercing e cose simili, ma non mi sembra, capelli colorati, ma... cioè esprimo la personalità di ognuno, quindi dovrebbero potersi tranquillamente vestire come vogliono, cioè, non andare mezzi nudi, però insomma. Ecco, diciamo, una cosa diciamo è la decenza, cioè andare spogliati, esatto, in maniera che può rimanere essere anche nei decori, però cioè, però i capelli uno se li colora come vuole i capelli. Esattamente. No, perché non capisco, è una vecchia professoressa, può farseli rosso fiamma o azzurro tortora, non sono, tortore non sono azzurre, però quell'azzurrino terribile, cadaverico sì, da arpia, e nessuno può dire niente, una ragazza non se li può fare gialli, blu, rossi. Questo esattamente, è questo. Va bene, siamo d'accordo. Grazie. Marco. Salve, buongiorno. Sì. Io vorrei portare la mia testimonianza, perché io ero in procinto di trasferimento all'estero e di conseguenza, avendo due bimbe piccole, avevo fatto chiaramente un giro nelle scuole della località. E dov'è? Che paese era? Dove dovevo andare? L'isola di Mauritius. Ah, vabbè, sì. Vabbè, chiaramente il rapporto delle scuole era totalmente differente, anche perché lì era obbligatorio proprio la divisa. In molti paesi anche molto più vicini, in molte scuole romane c'è la divisa obbligatoria. Esatto, quindi lì era proprio obbligatoria sia come indirizzo inglese che come indirizzo francese. Io trovo, guardi, sarò per questo bruciato in piazza con catrame e piume, lo trovo molto civile perché evita il primo luogo della discriminazione fra ragazzi. Il bullismo nasce per prima cosa come sei vestito da sfigato. C'hanno tutti la divisa, quindi sono tutti vestiti uguali, stanno tutti sereni. Questo è il motivo, non è che c'è altri motivi, certo, secondo certo me. Saremo bruciati insieme, quindi. Perché io d'accordo trovo anche proprio, lei. Io trovo proprio che noi qua in Italia abbiamo perso completamente il senso del decoro, cioè la definizione del decoro, ma non solo sulle scuole, che quelle dovrebbero essere alla base di tutto. Il primo esempio che mi viene è andare senza maglietta a mangiare nel ristorante al mare, cioè una cosa con l'ascella proprio che parte mentre mamma uno sta mangiando. Abbiamo perso completamente il senso del decoro. Vabbè, quindi che sei, sono quatti, burini, non è il decoro. Cioè, io per principio l'idea di decoro mi lascia molto perplesso. Mi piace molte volte che l'apparente decoro abbia delle irruzioni di irrazionale uscita dalla regola. Però certo, l'ascella che puzza a tavola e il quatto che viene in ciabatte dà fastidio, ma quello è soltanto animo quatto. Animo quatto, sì, grazie. Luca, buongiorno. Buongiorno, sui coatti mi associo e verremo bruciati in tre. Perché mi associo alla divisa a scuola. Io ho viaggiato non moltissimo, ma ovviamente in Inghilterra hanno tutti la divisa, ma ce l'hanno anche le scuole dell'obbligo dei paesi più poveri, come per esempio in Kenya o in Indonesia. Uno va in un'isoletta dell'Indonesia e vede tutti i ragazzini e le ragazzine con la loro bella divisa, tutti uguali. Sai, perché io sono convinto che, essendo luogo anche di socializzazione oltre che di apprendimento, è giusto che si socializzi senza il baluardo di distinzione dello status sociale. Sì, chiaro? Si è tutti alla pari, a quel punto si è veramente tutti alla pari. Ma i primi a protestare sono i genitori. Come il mio ragazzo viene con la divisa? Io so, ho visto riunioni ai tempi del liceo in cui le mamme si stracciavano le vesti e minacciavano scioperi della fame se avesse osato la scuola imporre al ragazzo non mettersi la maglietta firmata o il pantaloncino. Vorrà dire che faranno a gara chi porta i figli a scuola col Cayenne e chi le porta con la 500. Lo so, però dopo il passo successivo è impedire l'accesso alle scuole alle mamme con il Botox e quindi nessuno andrebbe più a scuola a accompagnare i figli. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ecco, a voi. Mi illumini sul lato più oscuro e più pruriginoso di questa trasmissione. Perché no, gli arabi. Ho lavorato anni in un ristorante insieme a musulmani. Ma tiravano fuori il pisello al ristorante, scusi, mentre cucinavano. Come faceva a vedere che erano depilati? No, nelle zone intime. Gli parlavo. No, me lo dicevano. Sulla fiducia. Ma sì, se me lo dicevano che si depilavano, poi io curiosamente sono voluto informarmi meglio e praticamente è solo un lato medico, un lato di igiene, perché in quei posti fa molto caldo. Ah, per evitare le piattole, dicendolo in bravo, parole. Bravo, bravo, bravo. Ci vuole tanto. Bravo. Poi per quanto riguarda l'aumento dei centimetri, poi non lo so. Beh no, quello è un colpo d'occhio, colpo d'occhio veramente. Colpo d'occhio, ma magari in quei paesi serve poco. Non, adesso non avvaloriamo dei luoghi comuni discriminatori nei confronti di noi occidentali. Grazie a tutti, grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti. A domani.